Gli eventi dell'estate del 2015 avevano reso evidente a tutti che i problemi che abbiamo, i problemi economici, ambientali, del lavoro, non possono essere affrontati e risolti a partire da un solo paese. Perché il numero 25? Il movimento si dà un programma di lavoro e di azione che ha un termine nel 2025, quando ci saranno le future elezioni europee e quando noi speriamo di arrivare a una costituente europea per rifondare l'Europa su basi democratiche. Quindi si parla di una riforma delle istituzioni europee più che non di una, diciamo, uscita dalle istituzioni europee? Assolutamente sì. Il nostro motto è: l'Europa sarà democratizzata o si dissolverà. Il nostro manifesto parte dalla considerazione che l'Europa in questo momento è una costruzione dell'establishment esclusivamente su base economica, soprattutto una costruzione che fa passare come scelte necessarie e dettate da una necessità economica a cui non c'è alternativa, delle scelte che in realtà sono assolutamente politiche e che vengono prese in organismi dentro scatole nere, dice Varoufakis, che sono assolutamente intrasparenti e incontrollabili da parte della popolazione. Sì. Varoufakis ha un fondamentale difetto. Pensa che quando una cosa è razionale, anzi è semplice buonsenso, questa possa essere capita e attuata da tutti. In Adulti nella stanza, libro che ha scritto sui suoi 6 mesi al governo in Grecia, sì, racconta molto bene come è andata e come tutti i personaggi fossero imprigionati in un gioco da cui non potevano uscire per fare la cosa che tutti loro sapevano essere giusta, perché è pura follia pensare che un debitore riesca a restituire il suo debito se viene messo in prigione per debiti. E questo è il meccanismo dei memorandum imposti alla Grecia. Sono memorandum che impoveriscono la popolazione, non fanno girare l'economia e quindi rendono sempre più impossibile restituire il debito, se non con iniezioni di nuovi capitali, di nuovi debiti, contraendo nuovi debiti. Di questa nuova capacità di visione europea, di trasformazione democratica, cosa ne pensi a riguardo? Penso che sia più che necessaria, che sia assolutamente vitale. È vero che l'Europa si sta disintegrando sotto la spinta anche semplicemente della rabbia delle popolazioni per l'impoverimento generale provocato dalle politiche dell'austerità, che sono politiche che non fanno altro che concentrare la ricchezza sempre in più poche mani e che impediscono qualsiasi forma di sviluppo e di gestione razionale delle nostre vite. 2 anni fa decidemmo come movimento Diem di mettere fra le frecce al nostro arco anche la presentazione alle elezioni europee. Fu una decisione lunga e molto discussa, perché una delle opzioni possibili era di continuare a essere un movimento di opinione e di advocacy, fare pressione perché certe idee, certi valori vengano presi in carico da politici inclusi nelle politiche di un partito o di un'organizzazione. Questo Diem come movimento dal basso, attraverso questa rete di collettivi spontanei, a creare anche seminari, esso il dividendo universale. Il dividendo universale è un reddito di base incondizionato per tutti i cittadini europei. Non si chiama reddito di base, ma si chiama dividendo universale, perché il nostro programma contiene anche un'indicazione su come finanziarlo, e cioè non attraverso le tasse, ma attraverso i dividendi delle multinazionali, che operano in Europa. E questo a cosa serviranno? Appunto, nel nostro programma è proprio: non si prendono da prestiti o da fondi di investimento, si prendono con una tassazione specifica sulle grandi multinazionali, sulla gig economy, su Google, su Amazon, sulle multinazionali che sono deterritorializzate ma operano in Europa e fanno profitti sui cittadini europei.